Il libro di Boris Vian, Le canzoni, titolo, è pubblicato da Marcos & Marcos, 205 pagine, 16.000 lire come abbiamo detto, e ci sarà uno spettacolo con le canzoni di Vian cantate da Gian Gilberto Monti, che è curatore del libro insieme a Giulia Colace, il 9 di gennaio al Teatro Lirico. Altro spettacolo ci sarà il 20 febbraio. Ricordo che su Una Villa c'è stata una serata dedicata a Vian parecchi mesi fa, forse un anno o anche più, ed era stata presa d'assalto. Ricordo che la gente non entrava, siamo andati avanti tutta la notte. Insomma, Boris Vian evidentemente evoca ancora qualcosa. E a che punto siamo? Direi che possiamo collegarci con Napoli, dove abbiamo Gino Frezza, autore di un libro di cui vi parleremo adesso. Abbiamo anche Gabriele Frasca, che farà una recensione dialogando con l'autore e con l'altra persona che abbiamo in studio con noi, cioè Antonio Caronia. Per affrontare che cosa? Adesso vi diciamo tutto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, questo è un libro particolare perché mette insieme una cosa che sembra appartenere a un passato ormai cancellato per sempre e il fumetto che invece appartiene alla nostra contemporaneità. Vediamo un pochino, Gino Frezza, se riesci in pochissimi minuti a dire cosa hai concentrato in questo libro che, devo dire, è di una certa ampiezza perché sono 242 pagine. Se riesci a stringere per i nostri ascoltatori, così intuiscono di che cosa parlerete tra poco. Allora, il libro in pochissime parole affronta la grande tematica delle relazioni produttive ed espressive che esistono da sempre, ma in particolar modo negli ultimi 40 anni, tra il cinema occidentale e il fumetto occidentale, europeo, statunitense, eccetera. Cerco di spiegarmi in qualche modo perché, per quale motivo c'è una ragione profonda per cui, ad esempio, negli ultimi 15-20 anni il grande cinema spettacolare ha saccheggiato in maniera forte, evidente, dai fumetti avventurosi dagli anni 30 fino ad oggi. Basti pensare a Batman, ma a Superman, a Dick Tracy, a tanti altri fumetti, a tanti altri grandi film di questi ultimi 20 anni. E il mito cosa c'entra? Il mito c'entra perché il fumetto, ma anche il cinema, pongono il problema filosofico, se vuoi, ma soprattutto anche esistenziale, cioè che ruolo svolge la tecnica. La presenza della tecnica nella comunicazione, soprattutto nei media, toglie spazio alla possibilità di una nuova mitologia e alla possibilità di avere esperienze del mito. Che rapporto c'è tra questo tipo di esperienza e la nostra vita quotidiana? Queste sono alcune domande che io cerco di affrontare, naturalmente, con una certa, diciamo, analisi, con un minimo di sforzo. Già porre la domanda è una questione originale, perché quasi tutti ci hanno spiegato dalle loro diverse discipline che il mito oggi non è più proponibile, è irripetibile, perché per la comunicazione, per come viene commerciato il prodotto culturale, per la televisione, eccetera, eccetera. Insomma, è impossibile oggi reinventare dei miti. Invece la tua risposta qual è? Ma la mia risposta è sostanzialmente questa: oggi la filosofia contemporanea cerca di rivedere la questione, prima di tutto perché si pone la domanda su che cos'è il mito. È il ritorno all'origine? È possibile ancora porsi, come dire, nella posizione di considerare il mito come un'esperienza di fondazione dell'umanità, o viceversa possiamo ritenere che il mito sia anche un'esperienza che noi viviamo nel nostro ambiente senza accorgercene, perché ci è così vicino che noi non riusciamo nemmeno a vederlo. E allora ci sono una serie di riferimenti filosofici che forse ci aiutano a recuperare questa dimensione, che certo è profondamente diversa da quella delle esperienze che invece si vivevano nelle comunità e nelle società umane pre tecnologiche preindustriali. Rifaccio la domanda a Antonio Caronia e a Frasca, aggiungendo che un artista ha detto che qualsiasi autore in qualsiasi campo, dal letterario al cinematografico eccetera eccetera, al teatrale, non fa che utilizzare sostanzialmente che 10-12 situazioni chiave, che sono davvero quelle di sempre, anche se poi evidentemente la cornice, i soggetti e così via, e la fase storica è completamente diversa. Quindi in qualche modo il mito ci scapperebbe di nuovo tra le maglie, perché si torna sempre lì. Però vediamo cosa pensano loro e poi parlatevi pure addosso, che va benissimo. Vabbè, allora Bruna, Gino e sono Gabriele, forse addirittura le situazioni fondamentali sono non 10 ma 2. C'è chi le ha ridotte a 2, le situazioni fondamentali dell'esperienza umana, cioè le 2 situazioni simbolizzate, una nell'Iliade e l'altra nella Odissea. Tu stai dicendo l'assedio e il ritorno? L'assedio e il viaggio, certo, l'assedio e il ritorno, il nostos, sì, se vogliamo usare il termine greco. Quindi probabilmente da questo punto di vista sì, cioè nulla nil sub sole novi, niente di nuovo sotto il sole, eccetera. Allora, effettivamente io devo dire, proprio pongo una domanda molto schietta a Gino Frezza. Io considero questo suo non libro essere cattivo, no, sono il meno cattivo che posso, però anche il più sincero che posso. Sì, certo. Io considero questo libro un contributo importantissimo per i materiali che ci sono, per l'acutezza delle analisi, per la precisione dei riferimenti e anche per l'ampiezza dello sguardo su tutta la storia del fumetto avventuroso dagli anni 30 ad oggi e dei suoi rapporti con il cinema. E si vede che chi ha scritto questo libro è uno non solo che se ne capisce, ma che ci ha pensato, riflettuto, eccetera. Allora, la mia obiezione è forse simile a quella che ha fatto Bruna prima, cerco di riformularla diversamente. Io ho sempre presente una distinzione, forse un po' scolastica se voi volete, che è fra da un lato il mito e dall'altro la mitologia. Sì. Cioè, un conto sono i racconti di fondazione delle società non solo pre-industriali ma addirittura pre-agricole, cioè delle società nomadi, delle società cosiddette primitive, insomma, quelle in cui davvero il racconto di fondazione entra nella carne e nel corpo dei singoli e quindi orienta quotidianamente tutta la loro vita. Un conto è l'esperienza del mito dopo questo passaggio epocale, che il primo passaggio epocale è quello della scrittura, non quello della società industriale, insomma, quindi è molto più antico, cioè già nel IV secolo prima di Cristo non c'è più mito, c'è mitologia, cioè c'è racconto, c'è ripetizione di una esperienza che un tempo è stata fondante in una dimensione complessiva del corpo e che già 400 anni prima di Cristo, 500, insomma, già dopo l'invenzione della, insomma, scrittura, non era più fondante perché cominciavano a subentrare delle altre strutture, cioè il tentativo di interpretazione razionale del mondo. Sì. Allora, io quando tu parli del mito, devo dire, in molti passi del tuo libro avrei io personalmente sostituito al termine mito il termine immaginario collettivo e mi ci sarei trovato lo stesso, cioè avrei capito lo stesso il libro anche se non avesse fatto riferimento a questa sorta di sostanza, come dire, primitiva, perché dal punto di vista del funzionamento dei meccanismi che tu metti in gioco e che, ti ripeto, insomma, non sono, è un mio giudizio, diciamo, motivato, insomma, sì, trovo molto buono dal punto di vista, però il dubbio che mi rimane in fondo è possibile tutto, diciamo, tutta questa macchina dell'immaginario contemporaneo ricondurla come principio di funzionamento al mito o no? Ecco, pare che la tua risposta, Caronia, sia no. Non lo so, vediamo. Se devo rispondere, o forse anche Gabriele vuole dire qualcosa, non lo so, vuoi intervenire oppure rispondo direttamente? Io direi che è più interessante ascoltare la tua risposta, intervengo. Allora, io capisco la perplessità di Antonio. Nell'ultimo capitolo del libro io riprendo, seppure limitatamente, non con le sue grandi capacità di spiegazione, questa distinzione che lui ha ripreso, mito-mitologia, da un ottimo libro di Furio Iesi, che tra l'altro è uno dei più grandi studiosi italiani del mito e della mitologia. Allora, il discorso è sempre questo: la mitologia sarebbe la sapienza, la conoscenza umana che si è sedimentata, che si è raccolta, si è razionalizzata intorno a questa esperienza di fondazione, che sarebbe il mito. Però lo stesso Antonio, poi, per farmi capire che cosa intende per mito, ad un certo punto parla del coinvolgimento del corpo in un'esperienza primordiale, come dire, fondativa della vita, no? Da parte degli individui, in quanto poi fanno parte di una comunità. Ora, ti ricordo che stiamo parlando del libro di Gino Frezza, che ha per titolo, a questo punto è il caso di ripeterlo, La macchina del mito tra film e fumetti, pubblicato da Nuova Italia, costa 24.000 lire e le pagine sono 250. Ma sentiamo adesso Frasca, Gabriele Frasca da Napoli, che non è ancora intervenuto. Io ho interpretato il libro di Gino alla luce del titolo, cioè non mi sono mai posto il problema del mito, ma mi sono posto il problema della macchina del mito. E vale a dire, è successo qualcosa a un certo punto. Io sono perfettamente d'accordo con Antonio Caronia quando naturalmente radica il mito in un qualcosa che ha a che fare con il corpo, perché diciamo è proprio la diffusione del sapere o dell'informazione non genetica che avviene normalmente nelle civiltà orali, avviene attraverso un processo di incorporazione. La memoria è questo: mandar giù a memoria brandelli sempre più vasti di mito e di conoscenza è un processo di incorporazione, è come programmarsi in qualche modo. Va detto che naturalmente noi siamo a ridosso di una, ed è a ridosso il libro di Gino, che giustamente si situa tra film e fumetti, siamo a ridosso di un modo assolutamente inedito in qualche modo di passare l'informazione non genetica. Il problema è quello dell'avvento dei media elettrici. E inevitabilmente è chiaro che quello che un tempo si passava per essere, no, la società delle immagini, cioè c'è stato un luogo comune enorme su questa società delle immagini, alla fine si rivela essere qualche altra cosa. E anche l'interrelazione fra cinema e fumetto, che poi è la parte oggettivamente più intrigante del lavoro di Frezza, il fatto non di soffermarsi sui fumetti o sul cinema, ma su questa sorta di strano interregno dove l'uno, diciamo, uno dei medi trasforma l'altro costantemente, perché la storia del fumetto da questo punto di vista è incredibile. Cioè, se uno parte da, appunto, dalle prime tavole e arriva alle tavole che attualmente si offrono a chi legge fumetti, si accorge che vi è un'inarcatura formale che fra l'altro è addirittura inimmaginabile in altre forme di comunicazione. Paradossalmente, nel momento in cui, per esempio, la letteratura sembrerebbe andare verso la semplicità, il fumetto, che dovrebbe essere la comunicazione semplice o che un tempo veniva gabellata per comunicazione semplice, si inarca. Allora vuol dire che c'è quello che diceva Gino, cioè una corrispondenza con la percezione. Cioè, c'è da parte di chi percepisce una modificazione in atto. Ringraziamo tutti quanti, dobbiamo fermarci qui, ahimè il tempo è quello che è e sta davvero sgocciolando verso la fine. Il libro di cui stiamo parlando adesso è La macchina del mito tra film e fumetti, Nuova Italia, 24.000 lire, autore, come avete sentito, Gianni Frezza, che abbiamo ascoltato nel corso della trasmissione insieme ad Antonio Caronia e Gabriele Frasca da Napoli. E ricordo che altri hanno partecipato a questa trasmissione, li ringrazio tutti quanti, da Bruno Pischedda, Gianni Beretta, Giovanna De Leoncavallo, Mario Balsamo. Un saluto da Bruna Miorelli e cosa dirvi? Tante belle cose, stiamo vivendo un momento di festa, godiamocela. Perché no? Ciao.